I lavori di domani di Anna Marino. Si occupa di intelligenza artificiale, nello specifico dell'utilizzo della teoria dell'argomentazione formale per la generazione di spiegazioni di algoritmi della cosiddetta AI, l'Artificial Intelligence Researcher. Tradotto in ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, si occupa infatti anche dello sviluppo di tecniche di spiegazione per sistemi di intelligenza artificiale e vedremo come, con esempi concreti del perché gli algoritmi leggono determinate foto o dati, che possano aiutare chi utilizza queste tecnologie a capire le ragioni che hanno portato il sistema a proporre determinate azioni. Ciò significa fare da tramite, un po' da traduttore, tra sistemi di intelligenza artificiale e loro utilizzatori. Per far questo bisogna avere una conoscenza profonda a livello matematico del sistema che si vuole spiegare, capire le esigenze degli utilizzatori di questo sistema in termini di spiegazioni che vogliono ottenere. E noi, come sempre e come per ogni puntata, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, Artificial Intelligence Researcher, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere informazioni e formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, grazie a Emanuele Albini, Research Assistant all'Imperial College di Londra. Sentiamo da lui in che cosa consiste il suo lavoro. Io faccio ricerca tutti i giorni e quindi quello che significa che cerco soluzioni per problemi che non sono ancora stati risolti, oppure trovo soluzioni migliori di quelle esistenti. Poi, essendo la mia ricerca in intelligenza artificiale, quello di cui mi occupo io in particolare è cercare nuove tecniche per spiegare algoritmi di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale oggigiorno viene utilizzata in molti ambiti. Quello di cui mi occupo io in particolare è spiegare perché un sistema di intelligenza artificiale ha dato delle determinate risposte. Quindi le faccio un esempio. Io potrei avere un algoritmo che gli do delle immagini e mi dice se sono immagini di un lupo o di un husky. Ora io voglio sapere come mai questo algoritmo mi ha dato questa risposta. E potrebbe succedere che l'algoritmo mi dice che quello è un lupo non perché nell'immagine c'è un lupo, ma perché nell'immagine c'è della neve, e di solito nelle immagini in cui ci sono lupi c'è anche la neve. Ovviamente questa è una cosa che non voglio succeda, e quindi quello di cui mi occupo io è di trovare delle tecnologie che mi permettono di identificare questi comportamenti negli algoritmi. Se vediamo una certa immagine, vogliamo che l'algoritmo voglia andare a determinati fattori nell'immagine, come il fatto che abbia il muso di un certo tipo o una cosa del genere. Ecco, importante anche, cogliamo la palla al balzo, visto che abbiamo qualcuno che ce lo spiega, capire che cos'è un algoritmo. Sì, è molto difficile da spiegare da addetto ai lavori, diciamo, ma in generale un algoritmo è una procedura, una serie di comandi che io do al computer e che lui eseguirà con il fine di rispondermi qualcosa. Quindi io dirò a questo mio computer fai questo, fai quello, fai quell'altro, e poi lui mi ritornerà quello che io gli ho chiesto. E l'algoritmo è fatto di numeri, dati, eccetera, e allora dobbiamo un po' capire un po' meglio come si arriva a studiare gli algoritmi, a fare ricerca e a essere ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi. Parliamo della tua giornata tipo. Che cosa fai tutti i giorni per capire ancora meglio il tuo lavoro? Non esiste forse proprio una vera e propria giornata tipo, perché ci si occupa di molte cose, ma principalmente spendo il mio tempo in due cose: studiare cosa altri ricercatori hanno fatto per capire quali potrebbero essere nuove prospettive per analizzare un problema, e quindi analizzare a livello matematico e algoritmico le soluzioni esistenti, e secondo invece poi svilupparne di nuove. Sulla base delle indagini che sono state effettuate su cosa c'è sul mercato, si può pensare a nuove tecnologie da sviluppare. Quante ore di lavoro fai al giorno, giusto per renderci conto anche della quantità di ricerca, di studio, insomma? Il numero di ore al giorno sono quelle di tutti, quindi dalle 7-8 ore, come qualsiasi lavoratore, diciamo. Forse la differenza fondamentale con altri lavori è che ci si divide, diciamo, tra la lavagna e il computer, perché prima le cose si progettano alla lavagna, quindi magari si fa un po' di brainstorming con dei colleghi e poi si procede a metterle in pratica, quindi a veramente programmare quello che si è pensato. Dove ti sei formato? Questo è importante, perché chi vuole arrivare dove sei arrivato tu ha bisogno di sapere tutti gli step. Ho studiato ingegneria informatica all'Università di Brescia, che mi ha dato un po' le fondazioni teoriche e tecniche per affrontare il mio lavoro, ma credo che questa sia una cosa che si aspetti un pochino da tutti oggigiorno, no? Quindi quello che ho fatto io durante i miei studi all'Università di Brescia è stato anche intraprendere un percorso di formazione integrativa in un collegio di merito, il collegio di merito Luigi Lucchini, che mi ha dato modo di accedere ad una proposta sia residenziale che culturale di prima scelta in un ambiente molto internazionale. Hai avuto anche una borsa di studio? Esatto, sì, ho anche avuto una borsa di studio che mi ha permesso, diciamo, di avere accesso a questa proposta nonostante le limitazioni economiche della mia famiglia. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche a seconda della seniority? Perché ovviamente la borsa di studio ti ha aiutato, insomma, a proseguire i tuoi studi, insomma, ti ha sostenuto economicamente, però poi c'è anche la monetizzazione e, come dire, la concretizzazione, quindi un aiuto doppio. Nella mia università il salario minimo per il mio lavoro si aggira attorno ai 2.500 euro netti e può tranquillamente arrivare a più di 4.000 con più esperienza o se si lavora nel privato. Tu sei molto giovane, comunque è un lavoro molto ricercato. Dove si può trovare, in che fasce di età, insomma, si comincia un po' a cercare? Direi fin dai primi anni dell'università o comunque nel periodo del master. Bisogna incominciare ovviamente ad orientarsi. È sicuramente importante avere un'esperienza variegata, è sicuramente importante avere esperienza all'estero e sapere bene l'inglese. Quindi questi sono un po' i consigli, non solo per formarsi ma anche per trovare lavoro, perché sia in Italia sia all'estero, insomma, la formazione della tua figura è molto internazionale. Negli ultimi 3 anni sono praticamente stato 2 anni all'estero, tra Giappone, Svezia, Regno Unito. Esperienze di questo tipo secondo me danno modo o di ampliare i propri orizzonti, anche di sperimentare diversi modi di lavoro, di studio o in generale di vita. E ora è il momento di prendere appunti, ma lo diciamo anche a chi ci ascolta, troverete tutto sul sito nell'introduzione al podcast con tutti i link, siti, app utili che suggerisce Emanuele Albini, adesso il Researcher in Artificial Intelligence. Riassumiamo, prendete carta e penna, i vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni, app, siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro nella tua figura, nel tuo campo? Quelli più diffusi sono LinkedIn e Glassdoor, in cui molte aziende pubblicano annunci. Per quanto riguarda invece la ricerca, è sempre meglio affidarsi ai siti delle singole università. Ma per informarsi, insomma, sull'intelligenza artificiale, quale app e siti? Negli anni passati ho utilizzato con molto successo 2 siti, il primo è Coursera e il secondo è IDEX. Entrambi offrono molti corsi online, anche di università americane particolarmente famose e che si occupano di questi temi specifici dell'intelligenza artificiale. Ecco perché è anche necessario, come dire, orientarsi prima e capire se quello è il nostro destino, se quello è il nostro campo, prima di arrivare, come dire, a intraprendere poi un percorso che, come dici tu, è molto strutturato. Che tipo di sviluppo vedi per il futuro della tua figura? Figure come la mia nei prossimi anni aumenteranno. Il mercato dell'intelligenza artificiale si sta espandendo con ritmi del 50% all'anno. Ovviamente non si sa ancora tra 20 anni, per esempio, cosa un ricercatore in intelligenza artificiale si andrà ad occupare, e con molta probabilità sarà completamente diverso da quello che faccio io, perché nuove tecnologie, nuovi sistemi vengono pubblicati ogni anno praticamente. Qual è la cosa che ti ha appassionato di più del tuo lavoro dell'intelligenza artificiale, un'applicazione pratica come quella dell'algoritmo del lupo? Appunto, quello che entusiasma in più è quando vedi le cose che vanno molto vicine alla realtà. Per esempio, per dire una molto semplice, che adesso stiamo tentando di integrare in ospedale, è un sistema per fare scheduling di pazienti con malattie oncologiche e quindi ottimizzare gli appuntamenti in modo da permettere a tutti i pazienti di poter accedere alle cure nel miglior modo possibile, sia per loro sia per gli addetti ai lavori. Certamente anche in questo tempo di Covid la salute è diventata al centro e bisogna rispettare regole, distanziamento, appuntamenti precisi, e quindi anche questo va nel senso non solo del lavoro di domani ma nel senso del lavoro attuale, quindi questo lavoro è un lavoro di oggi e di domani. Esattamente, sicuramente. La salute è sicuramente uno degli ambiti fondamentali in cui l'AI sta vedendo molte applicazioni e che può aiutare a migliorare le cure che si possono fornire, a migliorare la diagnosi delle malattie che esistono e a velocizzare i tempi con cui queste diagnosi vengono fatte e quindi fornire complessivamente un miglior risultato al paziente. Diciamo che si arriverà a un assistente virtuale che sarà un nostro alleato. Ecco, l'intelligenza artificiale è un'alleata. Sì, sicuramente. E nell'ambito della salute di solito quello a cui si punta non è tanto a sostituire il medico o l'infermiere, per dire, ma ad integrare la loro professione, quindi ad aiutarli a svolgere il lavoro con appunto questi device che permettono di avere informazioni più precise, più rapidamente e con delle analisi di un certo tipo già fatte e che quindi permettono al medico o all'infermiere di risparmiare tempo nella sua professione e dedicarlo a ciò che veramente conta, che poi sono i pazienti.